Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un cantante autore italiano che dal rap è passato a dominare le classifiche pop. Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai. È nato a Senigallia nel 1980. Appassionato di rap, inizia nel 1999 quando con suo fratello Fabri Fibra, già avviato nel mondo della musica, realizza il demo Fitte da Latte. Dopo anni di collaborazione con vari artisti, nel 2003 pubblica l'album di debutto Ego. Nel 2004 il secondo album in studio Home, il quale segna l'esordio del rapper in qualità di produttore musicale. Nel 2006 produce gran parte dei brani contenuti nel terzo album di Fabri Fibra, intitolato Tradimento. Nel 2007 il terzo album solista Le verità nascoste. Il quarto nel 2009, Fragile, Nesleaving volume 2, che contiene La fine, interpretata anche da Tiziano Ferro per il suo album L'amore è una cosa semplice. Nel 2010 L'amore è qui, nel 2012 Nesleaving volume 3, Voglio, in cui abbandona il rap in favore del pop. Nel 2015 partecipa alla 65esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Buona fortuna amore, dall'album Andrà tutto bene. Nel 2016 il suo nono album in studio, Kill Karma. Lui è Francesco Tarducci, ma tutti lo conoscono come Nesli. La traduzione di Kill Karma è uccidi te stesso, quindi è un suicidio, però non potevo suicidarmi pubblicamente e quindi ho inventato un personaggio che commettesse un omicidio e che uccidesse il karma, e lo uccide solamente per il semplice gusto di farlo, per vedere che effetto fa, e quindi è una provocazione artistica molto forte e si prende una responsabilità, questo alter ego inventato, e la responsabilità di fare quello che molti credo abbiano la curiosità di vedere che effetto crei, no? Se realmente si decidesse di ucciderlo o spezzare quel legame, quella catena lì. E la provocazione passa attraverso un sacco di contraddizioni che sono proprie della mia natura di individuo e di artista. Il primo capitolo della trilogia era Andrà tutto bene, e quindi il titolo già ci illudeva che potesse andare tutto bene. Adesso, quando si parla con te, e io l'ho fatto un po' di volte negli ultimi anni tra dischi, libro, ci si chiede sempre a che punto è dei suoi tormenti, Nesli? Cioè, sei in una fase di domande o di risposte? Il disco dà risposte. E fino ad oggi ho sollevato sempre tante domande, mi piaceva farlo, ma questo disco è il primo disco delle risposte, quindi chiudo tutte le parentesi aperte nel mio discorso e le chiudo qui, in questo album, proprio perché il terzo capitolo riguarda un'altra persona, un personaggio di invenzione. Ma sai, il mio grado di tormento e la mia inquietudine è anche sintomo di enorme salute creativa, anche perché ho scoperto con questo album di avere tante personalità che convivono in me. L'ho scoperto semplicemente prendendomi in questi giorni il tempo di rileggere le interviste del passato e di rivedere le copertine. Soltanto prendendo le copertine se ne identificano tanti di Nesli, e sono tutti, convivono tutti perfettamente in equilibrio in me, e ahimè sono tutti estremamente diversi per gusti musicali, per attitudine alla vita, per gusto nel vestire. Sono sette individui distinti. Sono ancorato a un certo tipo di cinema che ha formato la mia spina dorsale emotiva, e anche con film che magari un ragazzino non dovrebbe vedere. A questo punto ti chiedo quale cinema, sono curiosa. Ma guarda, un cinema che passa da Stand By Me e che attraversa Ultima fermata Brooklyn, Londra mi fa morire, i Goonies e quei bravi ragazzi, Donnie Darko e il Signore degli Anelli, quindi sono un mega mix enorme che ha influenzato tantissimo di me. Ma questo senso diametralmente opposto, da un racconto di provincia come Stand By Me a un racconto un po' estremo come può essere L'odio, in entrambi i casi raccontavano qualcosa di me, e del modo in cui io vivevo la provincia, del modo in cui io vivevo l'anonimato, il modo in cui io vivevo un po' i margini, ma non i margini di povertà o di degrado. A me piaceva bazzicarli per fascino. Poi non mi spingevo mai oltre la strada del non ritorno, però mi piaceva starli a guardare. Sono sempre stato spettatore di mondi, anche se vuoi lontani da me, ma tremendamente affascinanti. Hai parlato di provincia, però tu vieni da una provincia un po' particolare, perché la provincia di chi è nato, vive vicino al mare, è una provincia molto particolare, che dà dei tratti particolari. L'estate vivi in un modo, l'inverno lo vivi in un altro, ti forma in maniera precisa. In maniera precisa, in maniera opposta, nel senso non ho il ricordo dell'estate al mare, paradossalmente. Io ricordo di quel periodo tra metà anni 80 e metà anni 90, in cui Senigallia era ancora un po' embrionale e che era finito il boom degli anni 60 e era la fase di mezzo di quello che sarebbe poi stata l'inizio di una crisi, o di una crisi da un certo punto di vista, ma di un miglioramento estetico, ma in quel momento lì, in quella zona d'ombra lì, che poi è la zona d'ombra della mia adolescenza, io ho il ricordo della mia città d'inverno, che sono città fantasma, cioè città abbandonate, e mi piaceva viverla d'inverno laddove fosse più abbandonata, come se fosse una terra di confine, di nessuno, un luogo dove era finita una guerra civile. Non lo so, quel limite lì mi è sempre piaciuto. E mi ha sempre affascinato tanto, che poi il limite è il confine che separa due mondi, come prima dicevo, ai margini, ma non i margini per definizione sociale o estrazione culturale. I margini di uno come un fotografo che va in alcuni posti a far foto e sai che in quei posti brutti si fanno foto belle. E ho sempre pensato che in posti piccoli si potessero far sogni grandi e quindi mi spingevo al confine di qualcosa. E la linea che demarcava questo per me era il mare d'inverno, comunque. Ho visto un mondo solo mio, con dentro tutto il tuo silenzio, e giuro che ho pregato Dio, sotto questo cielo immenso. Ho dormito per l'ultima notte, anche in questa casa, sai, stretti, abbracciati, vicini, come bambini che non si vergognano mai, che non si vergognano mai, che non si vergognano. Dimmi che è lo stesso per te, che il tempo non è stato cattivo, che qualunque cosa accada domani per noi ci sarà sempre un motivo. E dimmi che è lo stesso per te, se no non ha senso, che quello che hai scelto per me equivale all'immenso. E quel giorno in cui tutto scompare rimane il silenzio. Parli anche d'amore, anche questa volta nel disco, ma l'amore salva o no? C'è una bellissima frase che io ho scritto nella lavagna appena entri in casa da me, che è una grande verità, che dice: dove sto andando tu non mi puoi salvare. Quel tu è legato al... Io poi sono religioso, quindi sono sempre in contrasto anche in quello. Ho scelto di non essere salvato, e quindi no, l'amore non salva, aiuta, siamo delle supernova, quindi aiuta a bruciare, no? Comunque è un percorso di lento decadimento comunque, che lo vogliamo vedere o meno, se no saremmo nati vecchi per morire bimbi. E in questo non c'è niente che tu ti porterai, niente tu ti porterai, a niente è niente, neanche il ricordo di ciò che eri, quindi nulla è fatto per arricchire e per farti sentire migliore, e se è per un momento. Se non sei consapevole di questo, ti arriveranno sempre dei giganteschi treni in faccia, per cui esiste poi la pazzia, quella reale, che non ti fa più essere collegato in questo mondo perché hai rimandato qualcosa o perché non te l'hanno spiegato bene, come la morte, come la malattia, il lutto. Sono tutte cose che questa società tende a rimandare. L'essere umano non è salvabile. Se sei religioso, sai che in realtà qualcuno il sacrificio lo ha già fatto per salvarti in qualche modo. Se non sei religioso, comunque in questa terra non c'è salvezza, è un percorso che devi fare affinché tu capisca o non capisca cose che potrai assolutamente non cambiare, che non dipenderà da te, ma che potranno influenzare il percorso breve o lungo tempo che tu passi qua. Ma se questo ragionamento lo fai alla fine, amen. Quindi il mio intento ad oggi è totalmente una provocazione artistica, è totalmente artistico, perché quella realmente, come i figli, è l'unica cosa che resta. E se non trovarsi mai vuol dire perdersi, io ho perso tutto e mi ripeto ancora vai. Sono il buio, fuori la luce, in mezzo all'odio, fuori la voce. Chi ti ha insegnato a voler bene, portalo nel cuore. Chi ti ha voluto sempre bene, adesso sta altrove. La mia penna, Levia, la mia pena, è separabile da me appena. Via, via da qui, va così, questa vita dice no, poi di sì, poi però, poi non so. Quindi vai, senza dai, senza ma, senza rinunciare mai, non lo sai come andrà, se alla fine non lo fai. Via da qui, va così, questa vita dice no, poi di sì, poi però, poi non so. Quindi vai, senza dai, senza ma, senza rinunciare mai, non lo sai come andrà, se alla fine non lo fai. Se alla fine non lo fai. Il tuo pubblico è vasto, però è fatto di chi ti può seguire in tutte le tue riflessioni e anche di chi semplicemente copia la tua frase sul diario, la condivide su Instagram. Tu cosa speri di lasciare a queste persone che invece magari non riescono ad accogliere tutto quello che hai da dire? Che segno, seppure piccolo, tu vorresti lasciare? Bella questa, no, non, credo che sia, è troppa la cosa, le cose che voglio dire, faccio fatica io, quindi non credo che venga recepito tutto, e va bene così. E anche perché il mio percorso umano, quello che trovo affascinante di questa esperienza che ho potuto vivere in questa vita, e motivo che, e la ricorderò sempre in questo modo, è il fatto che è documentabile la mia crescita, la mia evoluzione o involuzione artistica di uomo, perché l'ho sempre pubblicata, resa pubblica, anche quando era imperfetta. Quindi questa cosa mi affascina, il documento che rimane. Ho scritto tanti dischi, tanti, poi io scrivo tanto, per me la parola ha proprio un peso specifico, quindi ho raccolto un'enciclopedia di contenuti e in realtà la mia selezione all'ingresso fatta con i fan, il mio modo di utilizzare le parole, il fatto che se non hai una sensibilità non ci entri e voglio che non ci entri, però ci entrerai magari perché accadono cose in questa vita comuni a tutti, per cui poi puoi capirle. Sicuramente il senso di condivisione. Io una cosa che ho imparato subito da ragazzino e che non ho avuto, però proprio per questo ce l'ho avuta ben chiara. Era che in questa terra un motivo fondamentale e un senso di tutto è sentirsi parte di qualcosa. Quando l'essere umano si sente parte di qualcosa, si sente migliore e si sente felice, senza chiedersi tanto. Se viene meno quel senso di aggregazione, tu ti vedrai sempre da fuori e farai di tutto per stare in quei famosi margini, perché è l'unico posto che ti ha, tra virgolette, accolto, quindi ti sentirai diverso nella condivisione, nell'accoglienza, pur sapendo però che è la massima espressione, la condivisione, la comunione, ma non lo saprai più fare, che quindi ahimè vivrai non avendolo fatto, ma con la consapevolezza di averlo quantomeno capito. Quindi io l'ho capito, non lo faccio, non ho potuto, non riesco, non potrò, però mi piace metterlo addosso ai ragazzi che mi seguono, sentirsi parte di qualcosa, quello fa la differenza. E questa cosa me lo insegnò un film, New Jersey Drive. Tornando ai film e al discorso di prima, che hanno cambiato la mia visione, perché è l'arte, è la storia di quell'uomo che ha voluto raccontare e a me mi cambiò la vita, quindi è il potere enorme che crea, la tracciabilità culturale del passaggio dell'uomo, che non ci sarà per le povere generazioni di adesso, ahimè, perché hanno tutto digitale, basta che uno preme un po' un enter e non c'è niente. Conta che anche di tutto quello che noi costruiamo non ci sarà traccia, perché nell'arco di 100 o di 50 anni la natura se lo mangerà. E quindi quella condivisione lì, il bisogno di sentirsi parte di qualcosa, che è il bisogno primario dei ragazzi di oggi, che hanno magari come genitori quelli della mia età o della mia classe, un po' più su, che sono dei pazzi sciroccati. Ed è tutto per questo appuntamento con Voci in Scena. Con noi c'era Nesli. Ancora un saluto da Marta Cagnola.